Atto terzo della Mandragola di Niccolò Machiavelli. Questa è una registrazione di LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito librivox.org. Quanto Quanto felice felice sia sia ciascun ciascun ser vede, chi nasce nasce sciocco sciocco ed ed ogni ogni cosa cosa crede. crede. Ambizione Ambizione non non il preme, preme, non non muove muove il il timore, timore, che sogliono sogliono esser esser seme seme di di noia noia. e di dolore. Questo vostro dottore, Bramando bramando aver aver figliuoli, figliuoli, crederia che un asin voli, e e qualunque qualunque altro altro ben ben posto posto ha ha in in oblio, oblio, e e solo solo in in questo questo ha ha posto posto il il suo suo desio. desio. Atto terzo, scena prima. Sostrata, Messer Nicia, Ligurio. Io ho sempre mai sentito dire che egli è ufficio di un prudente pigliare dei cattivi partiti il migliore. Se ad avere i figliuoli voi non avete altro rimedio, e questo si vuole pigliarlo, quando è, non si gravi la coscienza. Egli è così. Voi ve ne andrete a trovare la vostra figliuola. E Messere ed io andremo a trovare fra Timoteo, suo confessore, e narreremgli il caso, acciò che non abbiate a dirlo. Voi vedrete quello che vi dirà. Così sarà fatto. La via vostra è di costà, e io vo a trovare la Lucrezia e la merrò a parlare al frate ad ogni modo. Atto terzo, scena seconda. Messer Nicia, Ligurio. Tu ti maravigli, forse, Ligurio, che bisogni fare tante storie a disporre Moglema, ma se tu sapessi ogni cosa, tu non te ne maraviglieresti. Io credo che sia, perché tutte le donne son sospettose. Non è cotesto. Ella era la più dolce persona del mondo e la più facile. Ma essendole detto da una sua vicina che s'ella si botava di udire 40 mattine la prima messa dei servi, che la impregnerebbe. La si botò e andovvi forse 20 mattine. Ben sapete che uno di quei frattacchioni li cominciarono a dare da torno, in modo che là non vi volse più tornare. Egli è pure male, però, che quelli che ci arrebbono a dare buoni esempi sia infatti così, non dica il vero? Come diavolo, se egli è vero. Da quel tempo in qua ella sta in orecchi come la lepre, e come se le dice nulla, ella vi fa drento mille difficoltà. Io non mi maraviglio più, ma quel boto, come si adempie? Fecesi dispensare. Sta bene, ma datemi, se voi avete, 25 ducati. Che bisogna in questi casi spendere e farsi amico il frate presto e dargli speranza di meglio. Pigliali pure, questo non mi dà briga, io farò masserizie altrove. Questi frati son trincati, astuti, ed è ragionevole, perché e sanno e peccati nostri e loro, e chi non è pratico con essi potrebbe ingannarsi e non gli sapere condurre a suo proposito. Pertanto, io non vorrei che voi nel parlare guastaste ogni cosa, perché un vostro pari, che sta tutto il dì nello studio, s'intende di quelli libri e delle cose del mondo non sa ragionare. Costui è sì sciocco che io ho paura non guastassi ogni cosa. Dimmi quello che tu vuoi che io faccia. Che voi lasciate parlare a me e non parliate mai, se io non vi accenno. Io sono contento. Che cenno farai tu? Chiuderò un occhio, morderommi il labbro. De, no, facciamo altrimenti. Quanto è egli che voi non parlaste al frate? È più di 10 anni. Sta bene, io gli dirò che voi siate assordato e voi non risponderete. e non direte mai cosa alcuna se noi non parliamo forte. Così farò. Non vi dia briga che io dica qualche cosa che vi paia disforme a quello che noi vogliamo, perché tutto tornerà a proposito. In buona ora. Atto terzo, scena terza. Frate Timoteo, una donna. Se voi vi volessi confessare, io farò ciò che voi volete. Non per oggi. Io sono aspettata e mi basta essermi sfogata un poco così, ritta ritta. Avete voi detto quelle messe della nostra donna? Madonna, sì. Togliete ora questo fiorino e direte 2 mesi ogni lunedì la messa dei morti per l'anima del mio marito. Ancora che fosse un omaccio, pure le carne tirano. Io non posso fare, non mi risenta quando io me ne ricordo. Ma credete voi che sia in purgatorio? Senza dubbio. Io non so già cotesto. Voi sapete pure quello che mi faceva qualche volta. Oh, quanto me ne dolsi io con esso voi. Io me ne discostavo quanto io poteva. Ma egli era sì importuno, oh nostro Signore. Non dubitate. La clemenza di Dio è grande. Se non manca all'uomo la voglia, non gli manca mai il tempo a pentirsi. Credete voi che il turco passi questo anno in Italia? Se voi non fate orazione, sì. Naffe, Dio ci aiuti con queste diavolerie. Io ho una gran paura di quello impalare. Ma io veggo qua in chiesa una donna che ha certa accia di mio. Io voire a trovarla. Frate, col buon dì. Andate sana. Atto terzo, scena quarta. Frate Timoteo, Messer Nicia. Le più caritative persone che siano sono le donne e le più fastidiose. Chi le scaccia fugge fastidi e l'utile. Chi le intrattiene ha l'utile e i fastidi insieme. Ed è il vero che non è il mele senza le mosche. Che andate voi facendo, uomini da bene? Non riconosco io Messer Nicia. Dite forte che egli è in modo assordato che non ode più nulla. Voi siate il benvenuto, messere. Più forte. Il benvenuto. Il ben trovato, padre. Che andate voi facendo? Tutto bene. Volgete il parlare a me, padre, perché voi, a volere che vi intendessi, aresti a mettere a rumore questa piazza. Che volete voi da me? Qui Messere Nicia e un altro uomo da bene, che voi intenderete poi, hanno a fare distribuire in limosine parecchi centinaia di ducati. Caca sangue! Tacete in malora e non fie molti. Non vi meravigliate, padre, di cosa che dica, che non ode e pargli qualche volta udire e non risponde a proposito. Seguita pure, lasciali dire ciò che vuole. De quali danari io ne ho una parte meco ed hanno disegnato che voi siate quello che le distribuiate. Molto volentieri. Ma egli è necessario, prima che questa limosina si faccia, che voi ci aiutate d'un caso strano, intervenuto a messere, e solo voi potete aiutare dove ne va al tutto l'onore di casa sua. Che cosa è? Io non so se voi conosceste Camillo Calfucci, nipote qui di messere. Sì, conosco. Costui n'andò per certe sue faccende un anno fa in Francia e, non avendo donna che era morta, lasciò una sua figliuola da marito in serbanza in uno munistero, del quale non accade dirvi ora il nome. Che è seguito? È seguito che, o per stracurataggine delle monache, o per cervellinaggine della fanciulla, la si trova gravida di 4 mesi di modo che, se non si ripara con prudenza, il dottore, le monache, la fanciulla, Camillo, la casa dei Calfucci è vituperata, ed il dottore stima tanto questa vergogna che s'è botato, quando la non si palesi, dare 300 ducati per l'amore di Dio. Che chiacchiera! State cheto! Ed eraldi per le vostre mani e voi solo e la badessa ci potete rimediare. Come? Persuadere alla badessa che dia una pozione alla fanciulla per farla sconciare. Cotesta è cosa da pensarla. Guardate, nel fare questo, quanti beni ne risulta. Voi mantenete l'onore al monistero, alla fanciulla, a parenti, rendete al padre una figliuola, soddisfate qui a messere, a tanti suoi parenti, fate tante lemosine quante con questi 300 ducati potete fare, e, dall'altro canto, voi non offendete altro che un pezzo di carne non nata, senza senso, che in mille modi si può sperdere, ed io credo che quello sia bene, che facci bene a più, e che e più se ne contentino. Sia col nome di Dio. Faccisi ciò che volete, e per Dio e per carità sia fatto ogni cosa. Ditemi il monistero, datemi la pozione, e se vi pare cotesti danari, da potere cominciare a fare qualche bene. Or mi parete voi quello religioso che io credevo che voi fussi. Togliete questa parte dei danari, e il monistero è... Ma aspettate, egli è qua, in chiesa, una donna che m'accenna. Io torno or ora. Non vi partite da Messer Niccia. Io le vo dire due parole. Atto terzo, scena quinta. Frate Nicia. Questa fanciulla che tempo ha? Io strabilio. Dico, quanto tempo ha questa fanciulla? Mal che Dio li dia. Perché? Perché se lo abbia. E mi pare essere nel gagno. Io ho a fare con un pazzo e con un sordo. L'un si fugge, l'altro non ode. Ma se questi non sono quarteruoli, io ne farò meglio di loro. Ecco Ligurio che torna in qua. Atto terzo, scena sesta. Ligurio, frate, Nicia. State cheto, messere. Oh, io ho la gran nuova, padre. Quale? Quella donna con chi io ho parlato mi ha detto che quella fanciulla si è sconcia per se stessa. Bene, questa limosina andrà alla grascia. Che dite voi? Dico che voi tanto più dovrete fare questa limosina. La limosina si farà quando voi vogliate, ma è bisogna che voi facciate un'altra cosa in beneficio qui del dottore. Che cosa è? Cosa di minor carico, di minore scandalo, più accetta a noi, più utile a voi. Che è? Io sono in termine con voi, e parmi avere contratta tale dimestichezza che non è cosa che io non facessi. Io ve lo vo dire in chiesa, da me e voi, e il dottore fia contento di aspettare qui. Noi torniamo ora. Come disse la botta all'erpice. Andiamo. Atto terzo, scena sette. Nicia, solo. È egli di dì o di notte? Sono io desto o sogno? Sono io imbriaco e non ho bevuto ancora oggi per ire drieto a queste chiacchiere? Noi rimanghiam di dire al frate una cosa e ne dice un'altra. Poi volle che io facessi il sordo e bisognava che io mi impecciassi gli orecchi come il danese a volere che io non avessi udito le pazzie che egli ha dette, ed io il sa a che proposito. Io mi trovo meno 25 ducati e del fatto mio non si è ancora ragionato. Ed ora m'hanno qui posto come un zugo a piuolo. Ma eccoli che tornano. Il malora per loro se non hanno ragionato del fatto mio. Atto terzo, scena ottava. Frate, Ligurio, Nicia. Fate che le donne venghino. Io so quello che io ho da fare e se l'autorità mia varrà, noi concluderemo questo parentado questa sera. Messer Nicia, fra Timoteo è per fare ogni cosa. Bisogna vedere che le donne vengano. Tu mi ricrei tutto quanto. Fia egli maschio? Maschio. Io lagrimo per la tenerezza. Andatevene in chiesa, io aspetterò qui le donne. State in lato che non le vi vegghino e partite che le fieno, vi dirò quello che l'hanno detto. Atto terzo, scena nona. Frate Timoteo, solo. Io non so chi s'abbi giuntato l'un l'altro. Questo tristo Ligurio ne venne a me con quella prima novella per tentarmi. A ciò, se io non gliene consentiva, non gli arebbe detta questa, per non palesare disegni loro senza utile. E di quella che era falsa non si curavano. Egli è vero che io ci sono stato giuntato. Non di meno questo giunto è con mio utile. Messer Nicia e Callimaco son ricchi, e da ciascuno per diversi rispetti sono per trarre assai. La cosa conviene che stia segreta, perché l'importa così a loro a dirla come a me. Sia come si voglia, io non me ne pento. È ben vero che io dubito non ci avere difficoltà, perché Madonna Lucrezia è savia e buona, ma io la ingiugnerò in sulla bontà. E tutte le donne hanno poco cervello, e come n'è una che sappia dire due parole, e se ne predica, perché in terra di ciechi chi va un occhio è signore. Ed eccola con la madre, la quale è bene una bestia, e sarammi un grande aiuto a condurla alle mie voglie. Atto terzo, scena decima, Sostrata, Lucrezia. Io credo che tu creda, figliuola mia, che io stimi l'onore tuo quanto persona del mondo, e che io non ti consigliassi di cosa che non stessi bene. Io t'ho detto e ridicoti che se fra Timoteo ti dice che non ci sia carico di coscienza, che tu lo faccia senza pensarvi. Io ho sempre mai dubitato che la voglia che Messere Nicia ha d'aver figliuoli non ci faccia fare qualche errore, e per questo, sempre che lui mi ha parlato d'alcuna cosa, io ne sono stata in gelosia e sospesa, massime poi che mi intervenne quello voi sapete per andare a servi. Ma di tutte le cose che si sono tentate, questa mi pare la più strana, di avere a sottomettere il corpo mio a questo vituperio, ad essere cagione che un uomo muoia per vituperarmi. Che io non crederei, se io fossi sola rimasta nel mondo e da me avessi a risurgere l'umana natura, che mi fossi simile partito concesso. Io non ti so dire tante cose, figliuola mia. Tu parlerai al frate, vedrai quello che ti dirà e farai quello che tu di poi sarai consigliata da lui, da noi e da chi ti vuole bene. Io sudo per la passione. Atto terzo, scena undicesima. Frate, Lucrezia, Sostrata. Voi siate le benvenute. Io so quello che voi volete intendere da me, perché Messere Nicia m'ha parlato. Veramente io sono stato in sui libri più di 2 ore a studiare questo caso. E dopo molte esamine, io trovo di molte cose che in particolare e in generale fanno per noi. Parlate voi davvero o motteggiate? Ah, Madonna Lucrezia, son queste cose da motteggiare? Avetemi voi a conoscere ora. Padre, no, ma questa mi pare la più strana cosa che mai si udisse. Madonna, io ve lo credo, ma io non voglio che voi diciate più così. E sono molte cose che discosto paiono terribile, insopportabile, strane. E quando tu ti appressi loro, le riescono umane, sopportabile, domestiche. E però si dice che sono maggiori gli spaventi che i mali. E questa è una di quelle. Dio il voglia. Io voglio tornare a quello che io diceva prima. Voi avete, quanto alla coscienza, a pigliare questa generalità, che dove un ben certo è un male incerto, non si debbe mai lasciare quel bene per paura di quel male. Qui è un bene certo, che voi ingraviderete. Acquisterete un'anima a Messer Domeneddio. E il male incerto è che colui che giacerà dopo la pozione con voi si muoia. Ma si trova anche di quelli che non muoiono. Ma perché la cosa è dubbia, però è bene che Messer Nicia non incorra in quel pericolo. Quanto all'atto che sia peccato, questa è una favola, perché la volontà è quella che pecca, non il corpo. E la cagione del peccato è dispiacere al marito, e voi li compiacete. Figliarne piacere, e voi ne avete dispiacere. Oltre di questo, è il fine si ha a riguardare in tutte le cose. Il fine vostro si è di riempire una sedia in paradiso, contentare il marito vostro. Dice la Bibbia che le figliole di Lotto, credendosi essere rimase sole nel mondo, usarono con il padre, e perché la loro intenzione fu buona, non peccarono. Che cosa mi persuadete voi? Lasciati persuadere, figliuola mia. Non vedi tu che una donna che non ha figliuoli non ha casa? Muorse il marito, resta come una bestia, abbandonata da ognuno. Io vi giuro, Madonna, per questo petto sacrato, che tanta coscienza vi è ottemperare in questo caso al marito vostro, quanto vi è mangiare carne al mercoledì, che è un peccato che se ne va con l'acqua benedetta. A che mi conducete voi, padre? Conducovi a cose che voi sempre avrete cagione di pregare Dio per me. E più vi satisferà quest'altro anno che ora. Ella farà ciò che voi vorrete. Io la voglio mettere stasera a letto io. Di che hai tu paura, moccicona? E c'è 50 donne in questa terra che ne alzerebbero le mani al cielo. Io son contenta, ma non credo mai essere viva domattina. Non dubitare, figliola mia. Io pregherò Dio per te. Io dirò l'orazione dell'agnolo Raffaello che t'accompagni. Andate in buon'ora e preparatevi a questo misterio, che si fa sera. Rimanete in pace, padre. Dio m'aiuti, è la nostra donna, che io non capiti male. Atto terzo, scena dodicesima. Frate Ligurio, Messer Nicia. Oh Ligurio, uscite qua. Come va? Bene, le sono ite a casa disposte a fare ogni cosa. E non ci fia difficoltà, perché la madre si andrà a stare seco e vuole mettere a letto lei. Dite voi il vero? Bembe, voi siete guarito del sordo. San Chimenti gli ha fatto grazia. E si vuol porvi un'immagine, per rizzarvi un poco di baccanella, a ciò che io abbia fatto questo guadagno con voi. Noi entriamo in cetere. Farà la donna difficoltà di fare quel che io voglio? Non vi dico. Io sono il più contento uomo del mondo. Credolo. Voi vi beccherete un fanciullo maschio. E chi non ha, non abbia. Andate, frate, alle vostre orazioni. E se bisognerà altro, vi verreno a trovare. Voi, messere, andate a lei per tenerla ferma in questa opinione. E io andrò a trovare maestro Callimaco, che vi mandi la pozione, e all'una ora fate che io vi rivegga, per ordinare quello che si deve fare alle 4. Tu di bene! Addio! Andate sani! Fine dell'atto terzo.